nasce un po' dall'esigenza di cercare di rendere accessibile una riflessione attorno alle politiche di governance del mercato sessuale da noi in Italia, dove questo resta ancora molto, come dire, un argomento molto difficile, fatto molto per slogan, quindi legalizzare come in Olanda, criminalizzare come in Svezia. Quindi cercare di metterci un po' le mani dentro e cercando di riflettere sia sul contesto italiano, ma anche traducendo in italiano alcune riflessioni che vengono fatte in altri paesi come la Svezia, la Francia, l'Australia, la Nuova Zelanda, per cercare di, diciamo, riflettere su quali sono le politiche che più, come dire, possono mettere al centro i diritti delle persone che fanno lavoro sessuale. Nel libro c'è anche l'occasione, come dire, per fare un po' di chiarezza su alcune cose. Ci sono capitoli che riguardano la tratta, perché in Italia quando si parla di prostituzione spesso si confondono ancora fenomeni completamente diversi. Sì, diciamo che nel dibattito, diciamo, pubblico, di senso comune, tutte le diverse possibilità di chi sta nel mercato del sesso, quindi chi ci sta per costrizione o alta costrizione, come appunto le donne, le persone trans, le persone di tratta, chi ci sta per scelta o chi ci sta per circostanza, ovvero diciamo all'interno di una società capitalistica diseguale, trova dentro sex work un'occasione, anche se temporanea e non ottimale, però di emancipazione, di accesso al reddito. Queste tre dimensioni, che sono molto diverse per esperienza soggettiva ma anche per tipo di politiche che invocano, nel nostro dibattito sono completamente confuse, e sono anche, diciamo, poi non solo confuse ma anche inquinate da una serie di letture di stampo moralistico sulla prostituzione e il mercato del sesso. Quindi il tentativo del libro è anche cercare di un po' sgombrare il campo da queste cose e poter guardare alla fenomenologia di questi processi in maniera laica, e appunto in maniera, diciamo, che abbia veramente come faro i diritti e la tutela dei diritti delle persone che ce ne sono coinvolte. È un tema che comunque fa discutere anche all'interno del variegato mondo del femminismo. E come? Sì, assolutamente. Tra l'altro in una maniera inusuale per il contesto italiano negli ultimi anni, perché storicamente l'Italia, a differenza di altri paesi, come per esempio i paesi anglosassoni, ha avuto per molto tempo la capacità di tenere insieme in maniera pragmatica anime molto diverse dei femminismi, sostanzialmente perché non ha tentato di trovare una sintesi su che cos'è prostituzione, che cosa se ne fa i femminismi della prostituzione, ma di cercare di tenere appunto la barra dritta e il fuoco su il sostegno e l'empowerment delle donne che c'erano coinvolte. Quindi, diciamo, questa alleanza che ha tenuto per molto tempo e che in un qualche modo è anche quella che poi ha permesso all'Italia di, negli anni 90, di sviluppare l'articolo 18 della allora legge sull'immigrazione turco-napolitano, che è quella che, diciamo, in un modo molto avanzato, che oggi fa qua tutte le parti, ma che per allora era un grande strumento di permettere la fuoriuscita da contesti di grave sfruttamento e di accesso alla cittadinanza alle donne che si trovavano in situazioni di tratta. Oggi invece siamo di fronte a una polarizzazione molto forte, e dove un pezzo di femminismo ha sposato, diciamo, quello che viene chiamato il modello nordico, comunque l'idea che la governance della prostituzione e sostanzialmente la prostituzione sia affrontabile attraverso la criminalizzazione dei clienti e non delle vittime, che però è, diciamo, suona molto rincuorante, ma poi nei fatti i dati ci dimostrano, da fonti molto diverse, da quelli delle associazioni di sex worker, passando per Amnesty International, ci dicono che poi in realtà è, come dire, è molto rincuorante se uno sta seduto dietro una tastiera a dire sono contrario alla prostituzione, criminalizzano i clienti, ma se poi va a guardare questo come cambia il mercato del sesso, rende ancora più vulnerabili chi è già estremamente vulnerabile in questo mercato, ovvero le donne e le persone transmigranti in condizioni di irregolarità. Per cui è un po' l'idea anche cercare di dare il nostro contributo a questo dibattito, provando a ragionare di decriminalizzazione e altre prospettive, altre, diciamo, non proibizioniste sul mercato del sesso, che appunto a nostro avviso non pagano. Non so se sia una questione di bolle, però negli ultimi anni sembra che ci sia un nuovo protagonismo da parte di sex worker, delle loro associazioni. Insomma, se in passato abbiamo avuto Pia Covre, che ha aperto un po' la strada, negli ultimi anni, anche a causa della pandemia che ha lasciato molte persone senza un reddito, c'è un nuovo protagonismo, è così? Ma il protagonismo, appunto, dell'attivismo sex worker, in un qualche modo ti potrei dire c'è sempre stato in Italia. Sicuramente forse siamo di fronte a dei cambi generazionali, per cui appunto penso al collettivo Ombre Rosse in particolare, ma anche al collettivo Swipe, che invece è più concentrato su sex worker che lavorano nei contesti online, hanno guadagnato una nuova visibilità e stanno cercando giustamente di prendere, di collocarsi e di prendere parola. Hanno fatto, come tu ricordavi, durante la pandemia un lavoro secondo me eccezionale di cucitura anche di soggetti molto diversi, quindi collettivi di sex worker ma anche tutte le associazioni e ONG che si occupano di riduzione del danno, che lavorano in strada con la campagna Nessuna da Sola, che cercava di sostenere le sex worker che si sono appunto trovate in situazioni di indigenza e di grave difficoltà a causa del Covid-19. Quindi sì, c'è un nuovo, diciamo, sempre il sex worker ha sempre una visibilità carsica, no? Io mi auguro che, diciamo, si stia stabilizzando anche in Italia quello che in Europa c'è già da molto tempo, cioè l'idea che le associazioni sex work sono delle interlocutrici e, come dire, che non si può fare politiche sul sex work senza interpellare persone che ne sono direttamente coinvolte. Non siamo di certo a quel punto in Italia, non lo siamo anche perché, diciamo, nessuno interpella nessuno in questo paese, non solo le sex work, nel senso che le politiche vengono fatte, diciamo, in modi, appunto, nei modi che conosciamo, però insomma speriamo che si stia andando in quella direzione. A proposito di politiche, quali sono alcune cose che si potrebbero fare per andare nella direzione di un aumento, una garanzia dei diritti? Ma diciamo, chiamiamole così, le strategie o i modelli che sembrano più efficaci ad oggi, che sono al momento applicati soltanto in alcuni stati dell'Australia e della Nuova Zelanda, cioè in Nuova Zelanda e alcuni stati dell'Australia, è la direzione della decriminalizzazione, ovvero togliere il sex work dalla posizione di non solo di crimine lui stesso, ma anche di decriminalizzare tutte le condotte che vi ruotano intorno, togliendo sostanzialmente così alle donne, alle persone trans che ci sono coinvolte, la pressione sociale della criminalizzazione, ma anche tutto lo stigma che vi è associato, che è ormai evidenza arcinota, che di fatto poi impedisce l'accesso pieno alla cittadinanza, al diritto di salute. E quindi quella, diciamo, ci sembra la direzione più interessante, e ci sembra anche quella che le sex worker chiedono. Quindi non tanto una neoregolamentazione, quindi un riconoscimento del lavoro to cure, per capirci alla tedesca, ma una depenalizzazione e decriminalizzazione del commercio del sesso.